Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, buongiorno. Quello che è successo in Iran lo sappiamo, ne discutiamo però per un motivo forse ancora superiore a quello del dovere di cronaca. La necessità di fare un ritratto di ciò che noi siamo diventati, di che cosa è diventato l'Occidente, governi e opinione pubblica. Com'è possibile, cioè, che il meccanismo di Tiananmen, la famosa piazza di Pechino, dove avvenne nell'89, cioè esattamente 20 anni fa, la spietata repressione del regime, quel meccanismo continui a funzionare? Com'è possibile che possa sopravvivere un regime come quello dei Mullah? Come è possibile che possa sopravvivere in una condizione politica di relazioni internazionali che tende a tollerare, nonostante alcune buone parole messe da alcuni uomini di Stato e solo da loro, tende a tollerare tutto quello che è accaduto? E cosa è accaduto lo sapete benissimo. L'Ayatollah Khamenei venerdì, nel sermone della moschea, aveva detto: se continuate a protestare contro le elezioni, accusandoci di brogli, dicendo che sono state manipolate, quindi esercitando il vostro diritto di espressione, di associazione, di manifestazione del pensiero, sarà un bagno di sangue, sarà il caos. E come scrive Roger Cohen sul New York Times, ha avuto tutte e due, il bagno di sangue e il caos che cercava, perdendo così l'Ayatollah Khamenei, la guida suprema della rivoluzione, il successore di Khomeini, come dire, l'organo massimo di legittimazione di quel regime, perdendo la sua aura. È stato un sabato veramente tragico e insieme pieno di speranza, al quale è succeduta ieri una domenica di relativa calma. Le donne hanno guidato le manifestazioni, stimolando gli uomini, i maschi, a get up, a mettersi in piedi, ritti dentro i cortei, a fronteggiare la repressione. La repressione, come sapete, non è esercitata tanto dalla polizia in divisa, quanto dalle bande, dalle squadracce paramilitari del regime, che sulle loro sfreccianti motociclette rosse, con i bastoni dall'anima elettrica, e facendo cecchinaggio e causando morte e dolore, pensiamo soltanto a Neda, la ragazza che è diventata il simbolo della protesta e che è morta sotto l'occhio di una telecamera, insomma, la repressione ha avuto questo carattere particolarmente spietato. Il movimento, questo è un punto importante, ha allargato i suoi obiettivi. Uno degli slogan è stato «Morte all'Ayatollah Khamenei», cioè è diventato una protesta contro il regime che reprime e che tende a spargere la grande menzogna sulle elezioni. Che cosa volevo dire quando dicevo che dobbiamo parlare dell'Iran tenendo conto di che cosa noi siamo diventati? Volevo dire che all'inizio degli anni 2000, all'inizio del XXI secolo, dopo l'11 settembre, ci fu un conflitto, perlomeno nell'opinione pubblica mondiale, tra chi diceva bisogna fare qualcosa, sono legittime le guerre in Afghanistan e in Iraq, bisogna svellere alla radice il jihadismo, il terrorismo islamico, i guerrasantieri, e chi sfilava in favore della pace a tutti i costi nelle piazze, ed erano molti naturalmente, di Londra, di Parigi, di Roma, eccetera, eccetera. C'era almeno una dialettica, l'opinione pubblica era divisa e c'era chi era interventista. Oggi sembra tutto più pesante, tutto più siamo un po' il frutto della nostra stessa diseducazione, e questa battaglia iraniana procede nel massimo isolamento. Siamo tutti appesi agli accenti, alle battute più o meno ferme, più o meno rigorose di Barack Hussein Obama, il quale cerca con fatica di emendarsi da una prima fase nella quale francamente ha mostrato, intorno al discorso del Cairo, di non avere capito niente della situazione che come Presidente degli Stati Uniti deve pur fronteggiare. Le Nazioni Unite, se ci sono, che battano un colpo. Bene, le ultime notizie sono che è stata rilasciata la figlia di Rafsanjani, uno dei fondatori della Repubblica Islamica dell'Iran, che ha parteggiato per gli insorti, che ha comunque, insomma, con i suoi mezzi politici ha fiancheggiato la rivolta popolare contro le elezioni. Mousavi, il candidato sconfitto, ha detto avanti con la protesta, si prospettano nuove manifestazioni con un tentativo di farle di massa e pacifiche, arrestate 457 persone, le molte vittime. Lo sapete, tutto questo renderà molto difficile il progetto di una protesta pacifica fuori dalla tensione omicida che la repressione sempre comporta. Il Consiglio dei Guardiani, uno di questi gran consigli della rivoluzione islamica, ha detto che il voto è regolare e tutte le notizie confermano il grande ruolo delle donne nella guida dei cortei. Chiedo a Davide Frattini, inviato del Corriere della Sera, che gentilmente ha accettato il nostro invito e che è appena rientrato da Teheran, una testimonianza. Prego, Frattini. Frattini? Non c'è? Frattini? Dalla regia mi dicono che c'è, però non si sente in onda. Va bene. Invece di Frattini chiediamo se ha notizie a Farhan Sabahi, che abbiamo avuto già ospite qui da noi e che cerca di essere collegata con un paese che gli Ayatollah hanno tentato di il regime ha tentato di blindare anche dal punto di vista delle connessioni internet. Della giornata di sabato e seguente, che cosa ci dice Farhan? Ma la notizia secondo me più importante è l'arresto di 5 familiari di Hashemi Rafsanjani, terza carica dello Stato, e tra questi di Faese Rafsanjani, la figlia che in questi giorni è scesa in campo a fianco di Mousavi e ha arringato la folla. Faese Rafsanjani è stata liberata stamattina e io mi domando in cambio di che cosa, perché la lotta di potere interna è proprio tra Ali Khamenei da una parte, alleato di Ahmadinejad, tant'è che ne ha subito avallato l'elezione a poche ore dalla chiusura dei seggi, e dall'altra parte della barricata c'è cioè Rafsanjani, alleato a Mousavi e all'ex presidente riformatore Khatami. Ecco, il fatto che la figlia di Rafsanjani sia stata liberata stamattina fa pensare a una soluzione anche politica, perché le prigioni ormai sono controllate dai Pasdaran. Abbiamo visto anche nei mesi scorsi come la magistratura iraniana avesse predisposto non avesse condannato a morte formalmente delle persone, per esempio, che avevano commesso degli omicidi prima di aver compiuto i 18 anni, e nonostante la posizione formale della magistratura, del capo della magistratura, questi omicidi, questi condanne a morte venivano comunque messe in atto in modo indipendente, in modo del tutto burrascoso, autonomo. Quindi il fatto che Faese Rafsanjani sia stata liberata stamattina vuol dire che Rafsanjani ha dato qualcosa in cambio. Nei giorni scorsi l'Ayatollah Ali Khamenei si aspettava una dichiarazione di Rafsanjani, Rafsanjani non ha fatto questa dichiarazione. La dichiarazione doveva essere un ok, un avallo dell'elezione di Ahmadinejad. Ecco, la lotta di potere è molto molto accesa in questo periodo, proprio perché Rafsanjani il 3 giugno durante una diretta televisiva era stato accusato in pubblico di corruzione davanti a un'audienza di 50 milioni di iraniani, era stato accusato da Ahmadinejad di corruzione. Bene. Ecco, la mia osservazione sì. È che Ahmadinejad potrebbe anche aver vinto questa elezione su Mousavi, ovviamente non col 50%. Vabbè, ma questo non è importante, l'importante è che c'è una rivoluzione in corso, infatti, non chi ha vinto le elezioni. L'importante è che gli Ayatollah sono considerati un regime di libertà legittimità di fronte a tutti gli iraniani, inclusi quelli che hanno votato Ahmadinejad. Sentiamo Davide Frattini, grazie Farhan. Sentiamo Davide Frattini. Sì, buongiorno. Eccoci. E come dicevo prima, che forse non si è sentito, io ho passato il confine all'aeroporto, proprio il controllo dei passaporti, a 10 minuti alla mezzanotte di sabato, perché era il momento in cui scadeva il mio visto. E da giorni le autorità iraniane facevano pressione su tutti i giornalisti che erano arrivati in realtà per seguire il secondo turno, che poi non c'è stato, e perché se ne andassero dal paese. Il sabato durante il giorno la polizia in borghese è passata dagli alberghi con la lista degli ultimi 7-8 che eravamo più o meno, per verificare che effettivamente partissimo, e quindi l'ultima cosa che io sono riuscito a seguire sono proprio stati questi scontri di sabato durante la giornata, quelli che si sono soprattutto attorno al parco Lale, quando i manifestanti tentavano di andare verso piazza Engel, che della rivoluzione, da dove era partita la grandissima, l'enorme manifestazione sì. Di lunedì. C'è una cronaca molto accurata e molto bella di Roger Cohen sul New York Times di queste manifestazioni, dei gas urticanti, delle fughe, delle bastonate, del carattere insieme caotico e appunto spietato della repressione, che non è una repressione soltanto in divisa, ma è una repressione di squadre, insomma, del regime. Cosa ci può raccontare Frattini? È sicuramente una repressione di squadre, nel senso che i cerchi di difesa di questa piazza Engelab erano stati organizzati con la prima linea fatta dai Basigi, e i Basigi erano, che è la milizia integralista del regime, squadre paramilitari, erano tutti in abiti civili, a parte ovviamente il casco antisommosso, lo scudo e i bastoni, e avevano formato una sorta di corridoio a sinistra e a destra sui marciapiedi delle strade che portavano a Piazza della Rivoluzione, impedendo di formare un vero corteo, perché nei giorni scorsi in realtà la gente camminava senza ancora formare un corteo verso il punto di partenza e poi da lì partiva la manifestazione. In questo caso è stato impedito questo, per cui... Ecco, vediamo se ci può dire, perché gli ascoltatori sono molto interessati, sì, a questo. Stefano da Pisa: ma mi vanno sempre via le cose qui, ma che è, ragazzi, stamattina? Forza! Allora, Stefano da Pisa, complimenti alle donne. Volevo sapere da Frattini il ruolo delle donne, ma facendomi precedere da questa telefonata. Stefano? Sì. Pronto? Eccoci. Sì. Sono lui, Pisa, scusi. Sì. Allora, i complimenti alle donne era questo. Ieri è stata una giornata dove le donne si sono, diciamo, da una parte il dramma di quella ragazza vestita all'occidentale, brutalmente uccisa dalla polizia in Iran, e questo era non un complimento, ma un ossequio a questa ragazza uccisa perché voleva la libertà. E le donne che a San Siro hanno battuto gli uomini nel concerto pro l'Aquila. Sembra che poco c'entri queste due cose, ma invece è quello che fa capire ai musulmani il rispetto che devono avere per le donne, specialmente per le donne che in questi paesi vengono drammaticamente discriminate. Io vorrei che tutte le donne del mondo dessero un inno di vivacità, di volontà, di libertà alle donne che soffrono nel mondo. Grazie Stefano. Frattini, è vero che c'è una specificità femminile nella protesta, una specificità? Sì, sicuramente ci sono madri con le figlie, madri che accompagnano le figlie, ci sono le ragazze come Neda che non indossano il chador, quello diciamo legale, completo, che copre tutto nero, e ci sono però anche tantissime donne invece con il chador nero, per cui non è solamente che partecipano poi quelle donne più emancipate che fanno parte delle famiglie della borghesia medio alta di Teheran, ma veramente è una partecipazione di tutte le donne che ci sono in città e che decidono di andare a queste manifestazioni, sicuramente per i loro diritti, quindi per affermare i loro diritti, ma anche proprio per una scelta politica, perché lo slogan ripetuto di più sui cartelli è "dove è finito il mio voto", per cui grazie Davide. Farian, c'è una ragione specifica nel rapporto tra donne e regime per cui in questa insurrezione c'è una partecipazione e una spinta e un'energia femminile che diciamo è messa a disposizione della battaglia per la libertà così forte, così chiara? Secondo me sì, perché in questi 3 anni e mezzo in cui Ahmadinejad è stato in carica ci sono stati vari problemi, per esempio le organizzazioni non governative, soprattutto quelle gestite da donne, hanno avuto tutta una serie di problemi e i fondi stanziati dal presidente riformatore Khatami non sono stati poi erogati, e ci sono state tutta una serie di misure anche che hanno favorito la segregazione dei sessi, cosa che non è la norma nella storia dell'Iran da 100 anni a questa parte, quindi sicuramente le iraniane hanno buono motivo. E poi in campagna elettorale Mousavi e anche Karrubi, i due candidati moderati, hanno parlato di dare maggiori diritti alle donne, addirittura. Ecco, di... il punto fondamentale, secondo me, lo dice oggi Michael Ledin nell'editoriale del mio giornale, è che noi abbiamo forse trascurato il fatto che questa donna, Zahra, la moglie di Mousavi, è stata la vera capa, diciamo il vero portavoce a un certo punto del movimento. È forse il movimento che ha creato, radicalizzandola, la candidatura dei Mousavi. Ma per la prima volta nella storia dell'Iran e del Medio Oriente c'è una donna in primissima vista, in primissima battuta. Cosa ne pensa Panella? Carlo Panella. La novità è clamorosa proprio per questo ruolo di leadership che ha la moglie di Mousavi. Dobbiamo tener conto che l'Iran sciita iraniano è diverso da quello che noi conosciamo. In Iran attualmente c'è una signora, una donna che fa l'ayatollah, che può emettere delle fatwa, cosa che nel mondo sunnita non può esistere. Ci sono delle confraternite religiose femminili molto, molto radicate. Il ruolo della donna nell'Islam sciita iraniano è un ruolo molto diverso, assolutamente non occidentale. Sicuramente questa moglie di Mousavi è oggi l'elemento di maggiore scardinamento del regime. Era evidente nel 78, quando io ero lì, che la prima cosa che ha fatto la rivoluzione, una volta che ha trionfato, è stata quella di prendere le donne e di metterle sotto. La donna iraniana è una donna, soprattutto Teheran, emancipata. È stata immediata la vendetta sulle donne del nascente regime comunista. Quindi c'è proprio un filone, diciamo, che riguarda il ruolo delle donne. Torniamo alla questione per un momento nostra, l'identità occidentale. Angelo Panebianco, docente di relazioni internazionali, più volte nostro ospite, editorialista del Corriere della Sera. Lei ha scritto alcuni tra i più belli articoli, diciamo senza urlare, senza atteggiamenti epicizzanti, senza prosopopea, all'epoca delle grandi manifestazioni pacifiste contro la guerra della prima metà di questo decennio, parlando dello spirito di Monaco, cioè di un fondo di sottomissione alla logica del peggio in politica internazionale che circola nell'opinione pubblica occidentale. Insomma, da meglio rossi che morti alle manifestazioni pacifiste di Londra, Parigi, Berlino e Roma, ci sarebbe un filo che in qualche modo riconduce al fatto che nessuno vuole morire per nessuna causa, e neanche soffrire, e neanche protestare, neanche, perché poi alla fine bisogna vivere in pace ed essere letteralmente lasciati in pace. Cosa pensa della situazione dell'opinione pubblica occidentale oggi di fronte a quello che succede in Iran, professor Panebianco? Beh, io penso, intanto, quando parlavo dello spirito di Monaco mi riferivo naturalmente più che altro all'Europa, e in quel momento certo non agli Stati Uniti, anche se il problema può riguardare l'intero mondo occidentale. In questo momento mi sembra che ci sia nella opinione pubblica europea molto attendismo, anche se in questo caso gli europei si sono mossi, penso alle reazioni francesi, britanniche, tedesche, che non a caso sono prese di mira dal regime, con una certa forza, con una certa fermezza di fronte a quello che stava accadendo a Teheran. Adesso il problema mi pare che tutto dipenda, anche per quanto riguarda gli orientamenti dell'opinione pubblica europea, da quello che farà Obama. Perché siccome Obama è diventato un punto di riferimento molto forte nel bene e nel male, insomma, dell'opinione pubblica europea, le sue scelte secondo me condizioneranno molto gli umori delle nostre opinioni pubbliche, in un modo o nell'altro. Il discorso del Cairo è stato accolto con grandi entusiasmi, forse superiori a quelli che meritava. Le scelte che lui farà certamente incideranno sul nostro atteggiamento. Ovviamente questo voler essere lasciati in pace rimane uno degli elementi di fondo di società ricche, di società che soprattutto non vogliono perdere quello che hanno, il che è anche da un altro punto di vista assolutamente comprensibile. Sì, Obama aveva sbagliato analisi, su questo non ci sono dubbi, basta una citazione, virgolette: siamo eccitati nel vedere quello che sembra un robusto dibattito prendere piede in Iran oggi, e ovviamente dopo il discorso che ho tenuto al Cairo abbiamo cercato di inviare un messaggio chiaro sul fatto che c'è una possibilità di cambiamento. Le elezioni sono in mano agli iraniani, ma come è già successo in Libano, così può succedere in Iran. Ci sono persone che stanno cercando nuove possibilità. Faceva bene ad appoggiare, diciamo, la tendenza anti-Ahmadinejad, ma pensava anche che avrebbe prevalso e che si era alla vigilia di una fase di dialogo. Invece si era alla vigilia di un bagno di sangue e di una insurrezione popolare. succede di sbagliare, mi sembra però che il Presidente degli Stati Uniti stia cercando, ne parleremo subito dopo la pubblicità, di recuperare in qualche modo, anche se si sentono molte dichiarazioni, molte parole, ma non fatti, non riunioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non diciamo prese di posizione dirimenti per un regime che è sotto sanzioni e che può avere paura dell'isolamento internazionale, dovrebbe fare i conti con le reazioni internazionali. Bene, Stefano da Bari. Sì, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei approfittare di questa sua apertura, cioè lei oggi ritiene che sia in corso una rivoluzione, siamo tutti d'accordo, forse siamo anche d'accordo sul fatto che Obama abbia sbagliato, ma noi in Italia, che riteniamo, come lei lo suggerisce peraltro tutti i giorni, che dobbiamo respingere tutti coloro che vengono dall'altra parte del mondo, come ce la mettiamo, come ce la caviamo, come ci salviamo l'anima da... continuando a dire che, Scusi, che c'entra? Infatti io non dico che bisogna respingere tutti quelli che vengono da tutto il mondo, dico che bisogna organizzare una immigrazione regolare attraverso quote e controllare la clandestinità, soprattutto se organizzata in forma di racket. Bisogna respingere le colonne organizzate dal racket della immigrazione che partono dalla Libia. Ma che c'entra questo con la rivoluzione? C'entra perché da quel mondo c'è un'infinità di gente che vuole scappare. Ed è forse quelli vogliono prenderselo. Guardi, si sbaglia, quelli lì vogliono prendersi il loro paese, il loro mondo e la loro libertà, non vogliono affatto scappare. Sì, ma Gabriele dalla provincia di Bologna. Nel momento in cui c'è la repressione, probabilmente. Nel momento in cui c'è la repressione rispondono le donne dicendo agli uomini forza, in piedi e manifestate, e vanno lì col chador, con i bambini. Ho appena sentito la testimonianza di Davide Frattini, guarderà anche lei YouTube, non so, guarderà i telegiornali, stanno cercando di forzare politicamente la situazione per far prevalere un nuovo equilibrio che sia più amico della loro libertà, questo è quello che sta succedendo in Iran. Gabriele dalla provincia di Bologna. Ecco, buongiorno, senta, io volevo semplicemente sottolineare che a mio avviso una maggior timidezza, diciamo, dell'opinione pubblica occidentale nei confronti di questi, diciamo, sistemi, questi paesi così autoritari, deriva dal fatto che purtroppo l'esito postbellico dell'intervento in Iraq e in Afghanistan è stato felicissimo. È un'altra cosa che probabilmente l'esporsi a favore dell'opposizione può dare un'arma in più al governo per poter accusare di essere manovrati dalle potenze occidentali e quindi un argomento in più per ma questo, sì, guardi, questo è un argomento, Gabriele, che viene molto ripetuto. Io ho molti dubbi su questo argomento, perché se fosse così il mondo sarebbe un insieme di confini impermeabili gli uni agli altri, all'interno dei quali ciascuno può fare quello che vuole, perché l'intervento è negato in radice nel momento in cui si dice che un intervento, una ingerenza di tipo umanitario, politico, di tipo liberale, quindi l'idea di esportare o con la forza la Costituzione, come è stato fatto in Iraq e in Afghanistan, oppure anche soltanto le tue idee su che cosa sono i diritti umani, è un attentato all'autonomia e alla sovranità del paese che si ritorce contro le opposizioni. Se questo fosse vero, lei ci crede, professor Panebianco? Guardi, in effetti non è facile dare una risposta su questo punto, perché io penso che Obama abbia scelto la prudenza, un po' perché aveva un'altra linea e si è trovato spiazzato, un po' anche perché effettivamente in questi giorni il problema probabilmente è capire cosa accade addentro all'elite del potere in Iran. Voglio dire, se in qualche modo si approfondiscono le divisioni all'interno di quelle elite, allora i rivoluzionari di Teheran hanno un varco. No? Se invece si rimangono compatte, isolano. Mi scusi, professore, ma non sono già compatte più. Cioè, la cosa veramente nuova e interessante è che ferri vecchi del regime, primi ministri nominati da Khomeini e che hanno governato per 10 anni l'Iran, sono dalla parte dei dimostranti. E addirittura si propongono per il martirio. Sì, questo ha ragione, su questo ha ragione, però, e non vorrei sentire poi anche Panella su questo, sì. Mi pare che se se il regime mantiene il controllo sugli apparati della forza e sulle milizie armate, non c'è spazio per, per altro che per un bagno di sangue. Ora, qui io credo che una delle cose che dovremmo riuscire a capire è qual è la vera riserva di consenso di cui gode la guida suprema. Ha ragione. Chiediamo un attimo a Davide Frattini questa storia del controllo degli apparati, perché arrivano continuamente notizie frammentarie, ne parla anche appunto Roger Cohen sul Times, lo dicono alcuni testimoni, lo riferiscono attraverso Twitter, Facebook, eccetera. E pare che ci siano molti episodi di desolidarizzazione dal regime di gente in divisa. Può essere, è vero, lei ha visto qualcosa in questa direzione? Ma onestamente quelli che potevo giudicare come poliziotti municipali di Teheran, cioè per giorni fino a sabato effettivamente c'è stato un rapporto proprio ottimo ed amichevole tra i manifestanti e questi poliziotti in divisa, ma non assolutamente della polizia antisommossa preparata per la repressione, che aiutavano effettivamente, fermavano il traffico, dialogavano con i manifestanti, stavano lì a guardare. Chi è sceso in campo sabato è sicuramente sceso in campo per picchiare, per intimidire, per rimandare tutti a casa. Quindi, insomma, secondo lei veri varchi, vere brecce non se ne vedono, insomma, ecco. Va bene, Carlo Panella, Pane Bianco la chiamata in causa. Sì, io credo che sia esattamente questo il problema. Il problema che ha il movimento adesso è non tanto la repressione da parte del governo, del regime, eccetera, ma la repressione che vediamo attuata dai Bassigi, cioè il fatto che c'è una parte consistente degli iraniani che purtroppo è solidale con questo regime e ha le sue squadracce, questi motociclisti che vediamo. Che cosa manca ancora? Cosa può succedere? Che cosa può bloccare i Bassigi? Questo è il problema. Che cosa può bloccare questo scontro di guerra civile? La rottura degli Ayatollah, che non c'è ancora stata. Cioè il fatto che loro sentano questo Mar Khamenei, questo Morta Khamenei, lo sentano che il loro mondo di riferimento si spacchi, che non sia omogeneo, che sentano questa continuità di Khomeini della rivoluzione infranta. Questo è la grande scommessa, che però non si è ancora verificata, perché Rafsanjani, Khatami non hanno nessun peso religioso e Montazeri, purtroppo, che ha un grande peso religioso, è sempre stato considerato un outsider. Posso farle un'osservazione un po' personale? Parlo allo scrittore Carlo Panella, giornalista e scrittore. Lei ha appena scritto un libro il cui titolo è inequivocabile: Non è lo stesso Dio, non è lo stesso uomo. Bibbia e Corano a confronto, edito da Cantagalli, appena arrivato in libreria. Bene, io dico questo. Sì, forse lei ha ragione, insomma, le linee, diciamo, teologiche, coraniche sono molto diverse, in radice, diciamo, da quelle però dell'Antico e del Nuovo Testamento. Però poi quando si vede la gente nell'Iran moderno, in una grande nazione sciita, in una nazione che si è preteso di governare un po' come una teocrazia, un po' come una democrazia, la gente che prende il proprio destino nelle sue mani, sembrerebbe che invece l'uomo iraniano, il ragazzo di Teheran, la donna Neda che muore per conquistare la propria libertà, corrisponda a un ideale universalistico dei diritti umani, che è quello che cerchiamo di coltivare tra mille contraddizioni e infedeltà anche in Occidente. Ferrara, quello che mi interessa e che più mi intriga in questo momento non è vedere, perché lo sapevo già, questa omogeneità, questa modernità, questa Neda la conosco anch'io, la conosce anche lei. Quello, il vero mistero è quello che succede nella mente dei Bassigi. Il vero problema che ci pone l'Iran adesso è verificare ancora una volta che ci sono centinaia di migliaia di giovani che fanno quello che stanno facendo, che sono pronti a morire, a martire e a uccidere per un ideale totalitario. Questo è il vero problema e questo vi fa il Corano. Non è la verifica che la modernità in Iran, nonostante Khomeini, è di nuovo emersa. Il problema drammatico che abbiamo di fronte è vedere... La risposta è molto chiara. Lei dice non guardi agli elementi comuni, guardi all'elemento differenziale. Frattini, questi Bassigi, che lo ripeto per gli ascoltatori che si fossero messi in sintonia adesso, sono appunto centinaia di migliaia di miliziani della sicurezza nazionale, sarebbe detto sotto il fascismo, che tipi sono? Lei ne ha capito qualcosa stando in Iran fino all'altro ieri? Ma una delle prime cose che mi ha stupito, al di là dei tipi, è il tipo di materiale che avevano pronto. Comunque, per le strade di Teheran, loro avevano delle divise, non divise perché sono in abiti civili, ma comunque manganelli, scudi, tutti pezzi utili alla repressione interna. Quindi sicuramente si sono trasformati da avanguardia della rivoluzione che ha combattuto contro Saddam Hussein nella guerra contro l'Iraq a una polizia di repressione del regime, che dà la caccia agli oppositori fino in casa, perché quello che io ho visto erano Basigi che in moto seguivano i pullman, dove si vedevano sbucare delle braccia con il braccialetto verde al polso, e sicuramente hanno seguito queste persone fino a casa per intimidirle, per intimidire la famiglia, magari anche senza prestarle, ma per avvertire: domani non si torna in manifestazione, si deve... Ma quello che diceva Panella, cioè la loro forte carica di convinzione religiosa, di ideologica, la repressione per difendere l'idea di uno Stato di Dio. Sicuramente quello che io ho potuto percepire in strada è anche una repressione per difendere la propria differenza, cioè si vedeva una netta differenza anche visiva tra i ragazzi, perché poi tanti dei basigi che io ho visto, le centinaia che ho visto lungo le vie di Teheran sabato, avevano la stessa età di quelli che manifestavano, cioè non è un'altra generazione, parliamo di persone di 25-30 anni, sicuramente la propria diversità, la propria durezza e il proprio credo. Loro guardavano diritto negli occhi chi passava per intimidire o per provare a capire da che parte stava e qual era il segnale. Bene, molto chiaro. Due telefonate che sono tipiche, diciamo, di una forte divaricazione che c'è nelle nostre coscienze. Prima Nicola da Belluno e poi Luigi da Milano. Nicola. Sì, buongiorno. Devo semplicemente constatare alla sua collaboratrice questa grossa differenza e che spiegherebbe, almeno dal mio punto di vista, anche le cose che si stanno dicendo in questo momento. Lì a Teheran abbiamo a che fare con una cultura, una spiritualità ancora viva. E quindi questa spiritualità viva ha un suo contrappeso dal punto di vista della violenza e anche dello spargimento del sangue, ahimè. Lei dice sono disposti a morire pur di difendere ciò in cui credono, no? Di difendere pur di conquistare delle libertà. E invece in Europa, lei dice? La nostra spiritualità, ahimè, è morta. Noi siamo cinici. E quindi non vale più la pena spendere la propria vita né per difendere né per conquistare. Grazie Nicola. Sentiamo Luigi da Milano che la pensa in tutt'altro modo. Luigi. Buongiorno. Allora, io volevo, diciamo, più che altro era una riflessione, non era una presa di posizione. Sì. Allora, io penso che noi, diciamo, occidentali, abituati alla cultura occidentale, quindi liberale e liberista, facciamo fatica a capire e interpretare quello che succede in Iran, perché secondo me in Iran hanno una cultura molto più legata comunque alla tradizione e anche alla tradizione coranica, per cui dei gesti che noi vediamo non riusciamo a interpretarli nel corretto modo, quando magari per loro sono dei gesti normalissimi. Poi in più un'altra riflessione che volevo fare era credo di sapere che tutto l'Occidente abbia degli interessi economici molto forti in Iran, e quindi mi chiedevo: ma non è che questa attenzione così spasmodica che l'Occidente sta dedicando all'Iran sia, diciamo, succube o comunque derivi da questo fattore prettamente economico? Punto interrogativo. Penso proprio di sì. Io ho organizzato le prime manifestazioni europee contro Ahmadinejad, quando Ahmadinejad disse che voleva cancellare Israele dalla faccia della terra, ebbi adesioni di governo, adesioni importanti nell'establishment, eccetera. Poi uscì un articolo, devo dire, sul giornale Il Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria per la quale stiamo trasmettendo, che diceva: beh, stiamo attenti però adesso, perché ci fu una rivolta a Teheran, Ahmadinejad fece circondare l'ambasciata italiana, cominciò a scatenare, eccetera, e insomma si disse: stiamo attenti perché abbiamo grossi interessi economici in Iran, e quindi, e ci furono all'ultimo momento delle notevoli desolidarizzazioni. D'altra parte si capisce, non tutti sono tenuti ad essere rigorosi nella lotta per i diritti umani nel momento in cui devono difendere interessi anch'essi molto importanti. C'è spazio per tutti. Bene, Farhan Sabahi, le chiedo che cosa succederà, non per fare gli indovini, ma per cercare di dare un contributo sulla base delle conoscenze che abbiamo. Cioè, è molto semplice poi alla fine, siccome ci sono centinaia di arresti che pesano, e c'è il destino di queste centinaia di persone in ballo, ci sono decine di vittime, c'è questa situazione di profonda tensione, che cosa succederà? Cioè, ci saranno altre manifestazioni di massa pacifiche che indurranno a un accordo nella nomenclatura, si apriranno nuovi spazi, si creerà un nuovo equilibrio, verrà ridimensionato il potere di Ahmadinejad, c'è la possibilità di uno sbocco politico della protesta, e la protesta stessa di piazza terrà, durerà? Sì, io credo in uno sbocco politico e tra un attimo le dico perché, ma non credo che sia in corso una rivoluzione, ma piuttosto una lotta interna tra fazioni. I dimostranti stessi non chiedono il ribaltamento del sistema, ma soltanto l'annullamento di queste elezioni, e la religione sciita continua a pesare. Beh, morte a Khamenei non mi sembra uno slogan, diciamo, da annullamento delle elezioni. Non è solo quello, però Allahu Akbar è il motto ricorrente, e comunque c'è una divisione netta all'interno del clero. Già prima delle elezioni, dal clero di Gume abbiamo avuto una fatwa, un decreto religioso, in cui si diceva che i brogli sono haram, sono peccato, e quindi chiedevano delle elezioni giuste. Montazeri, il grande Ayatollah, ha chiesto 3 giorni di lutto nazionale e ha detto che la religione proibisce di opporsi alle richieste del popolo. Quello che ci aspettiamo è che Rafsanjani riesca a ottenere il 50% del consenso all'interno dell'Assemblea degli Esperti, perché l'Assemblea degli Esperti è quella che può destituire la guida supremo. Teniamo certo. Però presente anche i numeri, noi parliamo di migliaia e migliaia, in realtà da Teheran mi dicono che sono centinaia di persone concentrate soprattutto a Sadatabad in certi quartieri, in altri quartieri di Teheran non ci sono notizie, c'è il sostegno di una parte della popolazione di Teheran, a Mashhad amici e parenti mi dicono che non ci sono manifestazioni e nemmeno a Tabriz, quindi è un fenomeno tipicamente urbano nella città. Bisogna vedere cosa ha dovuto concedere Rafsanjani in cambio della liberazione di Sostegno. Bene, grazie. Pane bianco. Volevo dire due cose, la prima sul futuro, la prima su quello che si era detto prima, e poi un'osservazione sui giorni immediatamente prossimi. La prima, sì, la spiritualità, le visioni del mondo, il Corano, certo, però non dobbiamo anche dimenticare che l'Iran è uno stato petrolifero, cioè uno stato che vive di rendita petrolifera. La rendita petrolifera consente di mantenere una serie di persone che poi sono le colonne armate, braccio armato del regime, e le loro famiglie. Quindi certo che ci sono le visioni del mondo, la disponibilità al martirio, eccetera eccetera, ma c'è anche il fatto che queste guardie della rivoluzione hanno le loro famiglie mantenute dal regime, e questa è una cosa che non riguarda tra l'altro solo l'Iran, ma tutti gli stati petroliferi, può riguardare anche il Venezuela, e quindi anche questa dimensione, quella più, se vuole, prosaica, non deve essere sottovalutata. Certo, ecco. Certo. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto, adesso noi abbiamo un problema, perché l'Iran è stato invitato a partecipare alla conferenza sull'Afghanistan in occasione del G8 che si terrà a Trieste tra pochi giorni. E se le manifestazioni continuano e se continua lo spargimento di sangue e così via, tutti noi occidentali ci troveremo in una situazione molto imbarazzante in quell'occasione, e si tratterà di capire se saremo noi ad annullare l'invito, a ritirare l'invito, oppure se sarà l'Iran a scegliere, accusandoci naturalmente di essere i mandanti della rivoluzione eccetera eccetera, di non farne parte. In ogni caso è plausibile che questo abbia poi delle conseguenze sui vari fronti di crisi, Afghanistan, il confine tra l'Afghanistan ed Iran, eccetera eccetera. Sì, io ho letto un articolo molto duro sulla stampa di Vittorio Emanuele Parsi, che è il docente della Cattolica e l'esperto di politica internazionale, che diciamo con più durezza si è espresso su questa situazione in Iran, e ha detto bisogna immediatamente revocare l'invito. Avevamo cercato anche il ministro Frattini, ma lo avremo in un'altra occasione, oggi era in un seminario chiuso a Villa Madama. Allora, io penso che bisogna, secondo me bisogna instaurare una sorta di strategia parallela, un parallelismo. La diplomazia deve essere salvata. Non è possibile soffocare la democrazia, o almeno si deve fare il possibile perché si salvino i canali di contatto diplomatico. Contemporaneamente non bisogna rinunciare ad alcuna presa di posizione e ad alcuna fattiva, iniziativa per segnalare l'isolamento internazionale del regime e incoraggiare contro la repressione il movimento libertario. Questa, secondo me, è l'unica cosa che si può fare. Quindi si può contemporaneamente riunire l'ONU e approvare una risoluzione e accettare la visita a Trieste del diplomatico iraniano, che deve entrare in questo gruppo di contatto che ha il compito, la missione importante di risolvere certi bei problemini sui quali l'Iran ha qualcosa da dire. Lei non crede che si possa fare questo, professor Panebianco? Si può tentare, certamente, e penso anche che quello che lei dice sia molto, molto sensato, forse l'unica cosa che bisogna tentare oggi. Naturalmente più si aggrava la situazione a Teheran, più diventa difficile gestire normali rapporti diplomatici con il regime, anche di fronte alle nostre opinioni pubbliche. Questo non c'è dubbio. Panella, lei cosa pensa? Che si deve fare? Trieste, per esempio. No, è d'accordo con... Perché Vittorio Emanuele Parsi dice disinvitiamoli. No, assolutamente no, perché questo è un discorso di diplomazia assolutamente inutile, ma che segnala appunto una volontà, una permanente volontà di dialogo a certe condizioni. Non dimentichiamoci che Trieste è stata preceduta dall'affronto fatto da Ahmadinejad personalmente a Frattini 20 giorni fa, quando doveva andare via a preparare questa riunione, e Ahmadinejad ha detto: no, non devi venire a Teheran, ma devi venire nella base missilistica, a cui ho appena lanciato un missile che praticamente può raggiungere con l'Italia. Cioè, fare la diplomazia con loro, bisogna avere lo stesso loro pelo sullo stomaco, ma sicuramente questo invito va mantenuto, anche perché è un segnale nei confronti degli iraniani, che si vuole dialogare con loro, anche col loro governo, e poi però, e questo un pochino manca anche nella diplomazia italiana, essere più duri, ad esempio nel chiedere il rispetto delle libertà democratiche e delle tutele degli arrestati, cosa che non viene assolutamente oggi mantenuta. Cioè, sul terreno dei diritti civili e dei diritti umani, avere più coraggio. Grazie. Farihan Sabahi la ringraziamo, Carlo Panella ringraziato, Angelo Panebianco lo stesso, Davide Frattini ringraziamo anche lei, le facciamo gli auguri di poter tornare in Iran al più presto, anche se non sarà facile. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleone e Giorgio Matè. Grazie agli ascoltatori, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani.